La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, datemene atto, siamo in diretta con gli studi di Milano. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia come sempre per l'ascolto. Abbiamo fatto l'impossibile, da trimestri avevamo cambiato la sigla della nostra trasmissione, perché giustamente molti di voi dicevano, ma insomma, siamo più ottimisti, però alla luce di quanto avviene, torniamo, vediamo per quanto ancora a This is the End, e naturalmente con l'approccio positivo della speranza che l'Europa riesca a trovare soluzioni a questi nuovi problemi, che inevitabilmente però avranno ripercussioni sulla crescita attuale. Tesa. Allora, oggi in borsa è una giornata di rebound, di rialzo, anzi la borsa italiana era la migliore fino a pochi minuti fa con guadagni superiori al 4%. Detto questo, oggi è la giornata, ma per tutto questo io vi rinvio naturalmente a Focus Economia dopo con Sebastiano Barisoni, in cui Mario Draghi parlava due volte. Stamattina ha parlato al vertice dei banchieri centrali a Sintra in Portogallo, e nel pomeriggio partecipa in via del tutto straordinaria al Consiglio europeo, quindi a Bruxelles, proprio per dare una idea al capi di governo europeo di ciò che la BCE, in coordinamento con Bank of England e con le altre banche centrali, è pronta a fare nel caso in cui le maxi perdite, cioè l'instabilità finanziaria degli scorsi giorni, accanitasi inevitabilmente sui titoli bancari e naturalmente in proporzione alla gravità degli NPL anche e soprattutto dopo quelle britanniche alle banche italiane, che sono quelle che hanno perso di più, che cosa si è disposti a fare. Sapete, probabilmente avete letto sui giornali ed è confermato stamattina dal commissario di affari finanziari economici europei Dombrovskis, che è aperta anche una trattativa riservata con l'Italia per la possibilità di avere in campo armi straordinarie per la ricapitalizzazione delle banche. Si era parlato, secondo me, con un eccesso di leggerezza, di intervento diretto dello Stato per 40 miliardi. Nella realtà alcuni giornali italiani oggi hanno articolato, seguendo fonti del Tesoro della Banca d'Italia, una forbice di interventi diversi da quello immediato, diretto dello Stato. Si parla di un Atlante 2, ma vedremo, perché Atlante 1 non mi pare che raccolga sufficienti risorse. Si parla di Padoan Bonds, che però costerebbero alle banche per ricapitalizzarsi l'8,5% di rendimento, secondo me troppo elevato. Si parla della possibilità di garanzie CDP ad aumenti di capitale come per SACE sugli export, oppure eventualmente ci fossero davvero cadute verticali tali da mettere in discussione la tenuta di qualcuna delle banche, MPS eccetera eccetera, anche a quel punto straordinariamente di CDP, perché sapete che CDP è fuori dal perimetro pubblico, anche se in realtà è pubblicissima. In questo quadro vi rinvio, per tutto questo quadro, a chiusura di borsa, al commento sui mercati e a tutto ciò che ancora resta aperto per Brexit dopo il voto del Parlamento europeo di ieri, che è stato un voto che istituzionalmente conta praticamente molto poco, però è un segnale politico, conta poco perché secondo le procedure dell'articolo 50 del trattato, in caso di uscita, di ratifica di uscita, come avrete capito la deve formalizzare il governo britannico, che non ne ha nessuna voglia. Nel qual caso c'è poi una consultazione che va avanti col Consiglio europeo e tutti i 27 restanti paesi devono essere d'accordo con il Regno Unito su quelle che sono le linee guida della trattativa per l'uscita, che a quel punto fa la Commissione. Due anni di tempo, alla fine la Commissione e il Regno Unito, se raggiungono un accordo, va a votare nel Consiglio europeo dagli equivalenti della rappresentanza di almeno il 65% della popolazione europea, e solo dopo però c'è un voto del Parlamento europeo. Ma il segnale politico del Parlamento europeo è che a vastissima maggioranza ha detto al Regno Unito: dovete per favore formalizzare in fretta la vostra richiesta di uscita, non ci interessano i vostri ripensamenti, non possiamo restare esposti all'instabilità. Mio unico commento: io spero che prevalga il buon senso, che consenta di limitare i danni reciproci invece che spirali vendicative, però capisco che molti di voi magari la pensano diversamente. Allora, questo è il quadro per le notizie, e poi sentite Barisoni per gli approfondimenti. Oggi si torna però a un grande classico per quello che mi riguarda, perché va bene occuparsi sempre dello stesso tema, ma intanto torniamo anche ai problemi di casa nostra. I problemi di casa nostra, mi verrebbe verrebbe da dire, quando stamattina ho letto che alla Procura di Roma sono aperti oltre 200 fascicoli penali per truffa e corruzione per le sole gare del Campidoglio, quindi 200 fascicoli penali, stiamo parlando di oltre 2000 possibili indagati. Ecco, questo dà l'idea poi dei problemi italiani veri che derivano da noi, non dall'instabilità internazionale. Ma un altro grande classico è in materia di fisco e tasse, e quindi telefonateci per dire la vostra, fisco e tasse, a proposito delle sentenze, a volte cervellotiche, diciamo così, non voglio usare altri aggettivi, perché ve le farò spiegare da un tecnico vero, che il giudice tributario riserva a noi contribuenti, dando l'impressione tangibile, per così dire, che viviamo in un paese dove la legge, al di là di quello che c'è scritto nei testi, è in continua evoluzione giurisprudenziale, ci mancherebbe altro, ma certo espone il contribuente a delle condizioni paradossali. Quindi se avete storie di particolare dubbio o di incazzatura con sentenze e giudicati della Commissione Provinciale Tributaria, regionale per l'appello o il grado successivo fino alla Cassazione, il numero è 800240024 per raccontarcele. In particolare, due recenti sentenze oggi sono al centro della nostra attenzione. Con una sentenza della Corte di Cassazione, la sentenza 25.451 del 20 giugno, recentissima, si interviene nella interpretazione, anzi nel consentire alcuni sviluppi penali fino al sequestro giudiziale a seguito di ciò che al fisco risulta, come sapete ormai da due anni, dalle nostre movimentazioni bancarie. Il fisco ha tutti i dati, sono le banche che glieli comunica, e vedete che questa sentenza pone un grave problema a ciascuno di noi se per caso fa movimentazioni ai propri parenti, perché si troverà esposto, dice la Cassazione, giustamente anche al sequestro, come se si trattasse di elusione o evasione. Allora, questa è una sentenza che adesso ci facciamo spiegare. Poi ce n'è un'altra, sempre della Corte di Cassazione. Abbiamo qualche settimana fa, ci siamo occupati di una sentenza della Corte di Cassazione che ha ribadito il fatto che nelle società controllate pubbliche, le municipalizzate e così via, non c'è competenza giurisdizionale della Corte dei Conti, perché la magistratura ordinaria da anni è in lotta con la Corte dei Conti dicendo che le partecipate pubbliche devono essere sottoposte alla magistratura ordinaria, quindi solo nel caso in cui il controllante, la giunta, il sindaco fa esposti, come in caso di danni privati, di soci privati in società, allora si instaura l'azione penale e però deve essere il giudice ordinario, non la Corte dei Conti. Naturalmente io ho eccepito che per buon senso, laddove si spende denaro pubblico in società controllate dagli enti locali o dallo Stato direttamente, e mi sembrerebbe buon senso che sia la Corte dei Conti a dover avere giurisdizione. Invece no, dice la Corte di Cassazione. Ed ecco che la Corte di Cassazione però adesso, con una nuova sentenza, a mio giudizio fa a pugni con la sua precedente, perché dice: attenzione, non c'è giurisdizione della Corte dei Conti sulle controllate pubbliche, ma se il denaro va dai privati e i privati lo gestiscono, c'è giurisdizione della Corte dei Conti. Ma come sarebbe a dire, non c'è una società controllata pubblica 100% pubblica e c'è invece se è gestito da un privato? Allora, siccome a me appare una specie di insensatezza sia la prima che la seconda, mi sono detto: spieghiamola ai nostri ascoltatori, ma facciamola spiegare da una delle due o tre persone che in maniera sistematica noi chiamiamo in questo caso per diritto tributario, cioè il professor Dario Stevanato, che insegna appunto diritto tributario all'Università di Trieste, che ringrazio di essere con noi. Buon pomeriggio, professore. Grazie a voi, buon pomeriggio. Cominciamo dalla prima. Com'è questa storia che se ricevo bonifici dai miei familiari rischio il blocco del conto corrente e la Corte Cassazione dice che è giusto? Dunque, questa è un tema che però apre una finestra su una questione più generale, cioè di come i media, di come i siti, i vari siti internet in questo caso, presentano le sentenze, perché già, diciamo, le sentenze ci mettono del loro. Però è giusto dire che quando è l'informazione a sbagliare, però bisogna dire. Qui c'è qualcosa che effettivamente c'è un problema di trasmissione dell'informazione, perché anch'io avevo visto sui vari siti internet notizia un po' come l'ha descritta lei, cioè le donazioni, i movimenti fatti tra familiari costituiscono reddito, quindi c'è una cosa assai allarmante e anche giustamente preoccupante per tutti. Perché la sentenza nasce, mi lasci spiegare, da un ricorso che era presentato dal procuratore di Portogruaro contro un imprenditore che era sospettato di avere ricavi in nero ed era finito appunto nel mirino della giustizia con l'accusa di non aver dichiarato oltre 1 milione di euro, e la finanza, indagando sui conti, aveva evidenziato versamenti, prelievi e anche donazioni al figlio ingiustificate. Questo era. Esatto, questo è come stata presentata. Io però ho scaricato la sentenza e l'ho letta, ce l'ho qua davanti a me, e dice una cosa diversa, cioè dice che si trattava in sostanza, non c'è traccia di versamenti o di prelevamenti nell'ambito della famiglia, ma di un soggetto che aveva preso dei soldi, cioè sul suo conto corrente italiano erano arrivati dei bonifici da una società croata. Sì. Il tema dei trasferimenti familiari invece è un altro, cioè l'altro reato che gli veniva imputato, ovvero oltre alla dichiarazione infedele per non aver dichiarato queste somme, poi tutto da vedere se erano effettivamente redditi, no, poi possiamo entrare sul tema. Però i rapporti familiari hanno un altro significato, cioè il soggetto in questione era indagato anche per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, perché pare avesse compiuto degli atti di cessione dei beni al proprio figlio che erano stati ritenuti stimolati. Quindi qui non si tratta di trasferimenti di somme di denaro al figlio considerate reddito, ma di qualcosa che è avvenuto ex post, cioè evidentemente dopo l'annualità contestata, e che secondo l'inquadramento dato dall'autorità giudiziaria dovevano ritenersi atti di vendita simulati. E questo mi fa riflettere però sull'attenzione a cui bisogna prestare nel prendere per buone molto spesso delle informazioni diciamo delle pillole che delle sentenze vengono date, e tutta l'informazione era presentata così, cioè sì, oggi ho consultato tutti i siti e tutti davano questa notizia molto allarmante, ma tutto sommato la sentenza invece riguarda un caso molto più circoscritto, cioè se effettivamente la presunzione di reddito che la norma pone, una presunzione molto grave per la verità, ma possa avere anche rilevanza in sede penale. Però ripeto, perché la Cassazione si pronunciava poi in particolare su un punto, cioè se queste presunzioni derivanti dalle indagini della Guardia di Finanza costituissero valore indiziario sufficiente per fare scattare l'applicazione del sequestro, a prescindere poi dal fatto che potessero costituire di per sé una fonte, certo, di prova dei reati fiscali. Certo. Però possiamo a questo punto, se mi consente professore, domanda secca per far capire i nostri ascoltatori possono stare quindi relativamente tranquilli che nell'ambito dei dati bancari che sono di tutti a conoscenza dell'agenzia tributaria non rischiano il sequestro se fanno movimentazioni per i propri familiari, sì o no? Ma secondo me no, adesso ormai non mi stupisco più di nulla, no? Però, però diciamo, ecco, quantomeno questa sentenza non dice questo. No. Perché dall'indagine della Guardia di Finanza emergeva la possibilità di finti conferimenti di asset aziendali. Ma non è chiaro, anche se ho il forte sospetto che questa società fosse dello stesso, cioè fosse partecipata dalla persona fisica italiana, il quale infatti si era difeso dicendo: guardate che non sono somme costituenti reddito, ma sono la restituzione di precedenti finanziamenti. Ora di solito si finanzia una società di cui si è soci, certo. Quindi è probabile che fosse. Pare però che lui avesse detto questa cosa ma non l'avesse documentata. Quindi va bene, allora però documentazione. Intanto, però diciamo rientra un po' nella, direi che tutto sommato rientra un po' nella fisiologia dei rapporti. L'unica cosa su cui interrogarci è se una presunzione tributaria di redditività di un versamento sul conto possa assumere rilevanza anche in sede penale. Questo va è il vero tema. Okay. Però primo chiarimento, quel che è giusto è giusto, l'informazione si batta al petto invece di fare i titoloni. Legga bene le sentenze, quindi cari ascoltatori potete movimentare i vostri conti bancari a favore dei vostri familiari senza per questo immaginare che automaticamente poi a seguito di indagini sui vostri conti ve li sequestrino. Beh, naturalmente eccezion fatta che poi magari un magistrato può pensare diversamente, però da questa sentenza che così vi è stata presentata e magari ha fatto sobbalzare molti di voi, ha fatto sobbalzare anche a me, non si deriva affatto quello che l'informazione ha presentato, quindi mi batto il petto a nome di tutti. Adesso, dopo un minuto di informazioni sulla strada, andiamo alla seconda sentenza. Com'è possibile che la Corte di Cassazione dice che non spetta alla Corte dei Conti la giurisdizione sulle società controllate pubbliche e spetta invece se il denaro è gestito da un privato? Vediamo se anche in questo caso è l'informazione che sbaglia o invece siamo in presenza di difformi orientamenti della Corte di Cassazione in materia di giurisdizione su contabile pubblica. Tra un minuto. La versione di Oscar. Allora, rapida occhiata agli sms e sulla sigla, lo sapevo che si scatenava un nuovo casino su questo argomento, però avete pareri difformi, diciamo. Alcuni dicono col mercato di oggi tutto torna come era prima, non lo so, io guardate che le stime, le prime del tutto ancora da prendere con le pinze, stime di minor crescita sì, per il Regno Unito, ma anche per i paesi dell'Unione Europea. Per esempio REF, quella di Fedele De Novellis, che spesso invitiamo ai nostri microfoni, è uscito ieri pomeriggio, parla di una tesa di crescita per l'Italia 0,6 e non più superiore all'1%, 1,2, 1,4 quest'anno. Vedremo, perché sono tutte da prendere con le pinze ancora, è inutile dire il contrario. Però, detto questo, però, a fianco di chi dice no, siamo più ottimisti, c'è anche chi invece implora, o anzi esige the final countdown, come dire, perché tanto è cominciata il fatto che l'Europa va a pezzi. Quindi c'è un pubblico diviso, perché sono divise l'opinione degli italiani su questo, anche degli italiani, e poi certo noi referendum non li possiamo fare scusate il colpo di tosse, perché non mi piace il fatto che non possiamo fare su spesa e tasse e trattati internazionali, però dicono che sono diventato populista. No, io difendo semplicemente il diritto individuale. Mi pare che su spesa e tasse e trattati internazionali sono questioni basilari del nostro contratto pubblico, no? Che in Costituzione noi non ci possiamo pronunciare, non mi pare una grande cosa di civiltà. È un'espressione che i costituenti vollero come paternalismo di Stato verso gli elettori, che naturalmente sono facilmente influenzabili, come se i politici non perseguissero i loro interessi. Cosa perseguono lì? La volontà generale, secondo voi, gli interessi pubblici? Ogni politico ci insegna, James Buchanan, ce lo insegna Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, persegue l'interesse della propria parte, non quella di ciascuno di voi che ascolta. Naturalmente molti di voi la pensano diversamente, perché con Alessandro Milani questi giorni abbiamo ricevuto tonnellate di lettere contrarie a questo parere, dicendo giusto delegare. Sì, tranne i fatti che poi le provano che le deleghe vengono esercitate come spesso vengono esercitate, non sempre. Torniamo alle nostre sentenze della Corte di Cassazione in materia tributaria. Abbiamo visto che nel primo caso, quello della movimentazione dei conti, sono i giornali, i media, i siti che hanno sbagliato. La seconda sentenza dice invece, a seguito di una sentenza recente che dice nelle controllate pubbliche non sottoposte alla giurisdizione della Corte dei Conti, ma a quella ordinaria, però se sono dei privati invece vale la Corte dei Conti. Come stanno le cose su questa sentenza e su questa apparente, per me incomprensibile, difformità dell'opinione della Corte di Cassazione secondo il professor Stevanato? Sì, questa è abbastanza sorprendente rispetto all'orientamento ricordato da lei, cioè la Cassazione ritiene che addirittura le partecipate pubbliche, se non le mere società in house, non rientrino nella giurisdizione della Corte. Caso la sentenza, mi perdoni, cosa che naturalmente alla politica piace molto, per così dire, sì, perché siccome la Corte dei Conti fa rapporti annuali, sappiamo tutti perfettamente che bisognerà vedere se un sindaco intanto fa l'esposto alla procura contro quelli che ha nominato nella partecipata o controllata pubblica, e secondo, in quel caso bisogna aspettare anni e anni e anni, chiusa parentesi. No, questo è verissimo, infatti molti notano che la giurisdizione ordinaria è teoricamente, diciamo, avrebbe le carte in regola per perseguire i comportamenti illeciti che creano danni di amministratori sindaci, ma di fatto non c'è l'innesco perché non sono gli stessi soggetti che si autodenunciano. Appunto, esatto. E qui invece la cosa sorprendente, no, peraltro su quel tema lì c'è invece un contrasto con la Corte dei Conti, perché la Corte dei Conti invece ritiene che nelle materie delle partecipate pubbliche ci sia la propria giurisdizione, quindi diciamo ognuno dei due giudici vorrebbe avere la propria. A mia opinione, negli anni, vedendo le forme che ha assunto, abbastanza violente, decise, del contrasto tra Corte di Cassazione, magistratura associata ordinaria e Corte dei Conti, siamo in presenza di un vero scontro di poteri. È la stessa ragione per cui il CSM, che non è un organo di rilevanza costituzionale secondo la nostra Costituzione, rifiuta metodicamente, esatto, il controllo, il sindacato della Corte dei Conti sui propri bilanci, ed è del tutto coerente con questa impostazione, purtroppo, secondo me. Esattamente. E questa qui invece sentenza che lei segnalato è strana perché appunto dice che si trattava di un privato che aveva stipulato un contratto di appalto con una regione per fare la bonifica di una certa parte del territorio, gli viene imputato di non aver eseguito il lavoro a regola d'arte e qui tutti si aspetterebbero, no, una problematica di diritto comune, certo. Un contratto d'appalto, il giudice ordinario che viene chiamato in causa per vedere se c'è un risarcimento da dare o da negare. E invece la Cassazione afferma che poiché c'è uso di denaro pubblico, allora anche il privato che diciamo fa un lavoro che era stato finanziato dalla Comunità Europea e che era transitato attraverso la regione sarebbe passibile di un danno erariale. Ma se fosse vera però questa tesi, cioè, verrebbe a dire ogni volta che un privato contratta con una pubblica amministrazione deve aspettarsi la Corte dei Conti. Perché non si capisce qual è ma poi, scusi professore, ma se il criterio, e posso arrivare a capirlo, è quello dell'uso del denaro pubblico, ma perché nelle partecipate controllate pubbliche il denaro da dove arriva? Infatti sono due situazioni del tutto, anzi direi a molta maggior ragione allora andrebbe affermato per le partecipate pubbliche nominate, gestite da persone che vengono nominate dalla politica nell'ambito ovviamente del rispetto delle regole e così via, però voglio dire com'è possibile che si determinino indirizzi così, almeno a me, apparentemente totalmente contraddittori. Che senso mi sfugge, c'è un uso poi a seconda della convenienza dell'argomento logico formale, perché in materia di partecipate pubbliche dicono ma sono delle società per azioni, valgono le norme del diritto societario. Qui invece dove c'è un contratto d'appalto, quindi dice bene, anche qui c'è uno strumento di diritto privato, qui non vale più perché la fonte del denaro è pubblica. Quindi sono due modi di argomentare, cioè lo stesso argomento, lo stesso argomento logico formale usato per raggiungere conclusioni diametralmente opposte. Ho capito, però cosa c'è dietro? come un giudice presidente di sezione di Corte di Cassazione è capitato, richiesto di dare una logica a opinioni contrastanti, in quel caso era sul diritto del lavoro, totalmente contrasta due sentenze diverse della stessa sezione lavoro della Corte di Cassazione, e lui rispose Abent sua sideralites, esatto. Ma ho capito, ma è una roba, non è che uno può dire a seconda della luna di come gli gira la Corte di Cassazione può pronunciarsi in maniera contrapposta, però in questo caso non c'è niente da fare, bisogna accettare questa roba e stare muti. Beh, è un precedente, ma poi appunto siccome la Cassazione ci insegna che anche nello stesso giorno riesce a dire sulla stessa questione a pronunciare due sentenze diametralmente opposte, chi lo sa, magari domani troveremo un'altra Cassazione che dirà il contrario, non lo sappiamo, cari ascoltatori, è un professore di diritto tributario a dirvelo qual è la ragionevole certezza delle nostre pronunce in casi dove vedete il ragionamento analitico formale dovrebbe essere totalmente uguale, cioè portare a delle conseguenze coerenti e analoghe, e invece il giudice dice no, si fa così oppure si fa cos'ha. Ma senta, io le chiedo un'ultima cosa, ma in relazione alla riforma del giudice tributario, lei difende il sistema attuale o il sistema per il quale bisogna andare invece alla magistratura ordinaria e basta, levando le commissioni provinciali tributarie regionali che appartengono alla stessa amministrazione che in realtà poi indaga e imputa il contribuente, cioè dipendono dal Ministero dell'Economia? Che cosa è meglio secondo lei? Allora, sicuramente vanno professionalizzati, cioè serve un giudice togato, che poi questo debba... che tutto debba confluire nella giurisdizione ordinaria o qualificare meglio le commissioni, forse non fa tantissima differenza, visto che le commissioni già ci sono, potrebbero essere sfruttate. Attenzione che il tema della dipendenza dal Ministero delle Finanze riguarda le attività di segreteria, mi sentirei di dire che dipendono funzionalmente. Secondo me la scarsa qualità della giurisdizione tributaria non dipende dal fatto che sono di parte, ma dipende dalla mancata qualificazione. Mi sembra molto di buon senso, però, invece di inventarci un'altra riforma aborigine, tentare di professionalizzare quello che sarebbe, c'è. A dire la verità. Comunque, grazie al professor Stevanato. Speriamo di avervi dato un'idea di come sia, per così dire, lunatica, l'interpretazione della Suprema Corte su cose così importanti, perché riguardano il denaro di voi tutti, sudditi, molti dei quali anche felici di esserlo, non tutti, neanche la maggioranza, però alcuni forse, chi lo sa. Continuate con 24 appuntamento 8:15 domani mattina come Alessandro Minetti, Antenna 2.